parlare di un grave restringimento, la solitudine. Non tanto se si pensa al numero dei contatti avuti, quanto se si riflette sulla qualità degli stessi. Ci si rende subito conto di vivere in un mondo dove c'è interscambio di cazzate, dove la prima cosa che si dice quando si incontra una persona è tutto a posto. E la comunicazione, utilissima a scaricare le angosce, diviene una nuova tortura. Tutta posta, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni. Qui il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Posso, io mi sento in fondo a un posto. Tutta posta, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni. Senti, il mio lui lei m'ha lasciato, io mi sento un po' angosciato. Tutta posta, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni. All'eroina. Tutta posta, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni, poste, telegrafi, telefoni, telecomunicazioni.